dei giammi, vuoi rispondere o non vuoi rispondere? Comunque ho sentito il più forte oceano. Eh sì, è quello che parla dal presentante col più forte. Sei gatta. Oh, così è. Ma chi ti ha detto, lui o tu lo stai dicendo? È le voci che sento in giro. Lo so, è più forte, sì. Mi pare che è 30 anni che non parla più della radio. Ma tu quanti anni hai? 20 o 50? 17. Allora, ma te vai con il oceano, non lo dico io. Lo conosco tanto tempo fa. Ah, così è. Guarda, Ugini lo conosce uno solo oceano. Lo sai chi è? Lo dico io chi è. È il genero di oceano. Ma ho capito, scusa. Il genero di oceano, eh. Non mi piace, è nel letto. Ma che conosco io per quella 2. Magari va meglio 60, dico la pubblicazione scritta. Vabbè, ho messo un bel lungo modo di microfono, ecco, la modulazione. 80 è un microfono di fatto da grande, forse il peggiore che ha fatto la chiude. Va bene, ma la laterale, ma una M, un FM, un FM forse va meglio. Una M no, recupera la modulazione. Ok, vabbè. Grandi, riprendi, torna al mondo, tu che ne. Alemane me l'ha trattata. Ok. Ma è lo sconti la colata. Ho un'informazione mi serviva. Ah, dammi tutto. Stavo magari in concessione, stavo a fare. Pagare? Magari la concessione. Sì, la pagare, se mi sembra la volta a pagare. Ma il documento devo preparare. No, il versamento. 12 euro. Quando c'è il versamento pagato, allora leghi la coppia del versamento e fai la domanda. Se no, gli sbaglio. E 12 euro per quanto? Tutto l'anno. Tutto l'anno. E sono in regola, nessuno mi può dire niente. No, tranne io, se non giri le palle. Ma quello, già sei poco affogurato. Ancora? Diva ci vinci così, diciamo perché c'è a testa. Cirinci? A Cirinci, non lo conosci? Cazzo, te lo conosco! Aspetta un attimo, Conrad. Allora, adesso usando l'MC80, la sua stato metto l'MC60, aspetta un secondo. Ancora ti rimettere il pulsantino in, out. Sì, in DM, Conrad. Thank you. Bertino qua, così ha detto che si chiama baraccamento pesante. Certo che sì, buonasera Bertino. S3, modulazione buona, adesso un po' più forte di prima, a 4. Sopra radio costoso, no? Su una radio a 3 parla che è confiante, senza usare i microfoni, c'è. Ehi, guarda, io ti faccio una cosa, siete tutti bravi, a usare i microfoni, ma fare abbinamenti, guarda, fate solo piangere, veramente, non c'è di uno che riesce a fare un abbinamento microfonico, guarda, non ho sentito neanche uno sino adesso. Chiamile, lunghi. subito, insomma, ci... Allora, se n'è andata, devo salutare. Ciao Matti, tu Roberto, c'è ancora, va? Ciao Fabio, ben sentito. Io una cosa, Antonio, ho portato il tuo contatto con la Roma. Roger. Ok, vabbè, vi saluto io a tutti quanti, ciao Antonio, come si chiama, Luca, Gianni, Natalino, Claudio che è già andato via e tutti gli altri che sono all'ascolto. Le prossime, ciao a tutti, buonanotte. Ma sono qua io, qua è ancora. Un attimo che mi sposto. Claudio. Okay. 6 sali c'è un clan, un pochettino di più. Thank you. Stavo provando un attimo. Quanti ne è, dottore? Pochi, pochi. Questo che è uguale al mio. Abbiamo 600 volte per uno. Vabbè, adesso quanti ne ha sotto? Pochi quanto? 200, 300, 5.000, quanti ne ha? Aspetta un attimo, Luca. Aspetta un attimo, Luca, devo fare una prova, ciò che devo fare. Lui fa una prova. Attenuami un attimino. Non parlo però, attenuami. Beh, di sera, che è rimasto, caro? C'è Franco, coricato, sì. Giovanni coricato, sì. Giovanni è stato già coricato. Per forza, se andava a fare i festini, poi già che non si deve coricare. Lo fa, c'è un po' buttata, però qui chi mi avanti. Cosa non ho capito? C'è un buttata, non raccogliatela dopo. No, no, Lu, da tranquillo. Signora praticamente stamattina sono andato lì con l'alimentare che è vicino a casa e stava parlando praticamente col genero da padrona del cane, è riconoscibile. Ah, vero? No, ci sono guagna, è cattivo mica, il dottor lo conosceva, si deve sicurare a te, ha un bel di denti, poi che coraggioso veramente. Ma non credo, c'è niente coraggiosa, non credo più, è veramente cattivo, è cattivo, cattivo, ha fatto il padrone Roberto, un figlio di Salvemia, ha fatto lui cattivo, però manda avanti alla scuola, matto di gatti. Ma è proprio matto di, a me un cane solo mi ha mossicato, Ranghero, capito, un fattore maramano, un bel mano, mi si è mettato il braccio e ci si puntiamo il braccio dal cane. Bisogni, E quando esce rimette la mugliarola perché è molto cattivo come il cane. Non mangia la terra. Vabbè, in casa con le finestre aperte prima o poi non ci sarà questo cane. Basta buttargli un paio di polpettine con l'antichitogramico giusto dentro, vedi che li trova appassiti dentro, come due piante che ne sono seccate. Ma sì, nel terrazzo già esce, sì. Già esce nel terrazzo. Allora questo qua, questo cane qui mi si chiama Rudy, un cane che ammaiava e poi l'abbiamo visto come cane, molto bravo, ma veramente guarda, ci fa un pupazzo. E ha detto Sandro, guarda, mi dispiace per me, per il mio cane, però lui lo voleva a te una palestra, ce l'aveva, solo che stavano giocando con questa palestra, la stavo caricando a provarla, come si a provarla senza niente, e ne ho spaccato il, diciamo, l'elastico, poi glielo avevo tirato, perché quel cane è sempre interrasso. ogni tanto bisognerebbe fare la prova. Comunque guarda, tu credimi, è veramente cattivo quel cane. Cattivo, perché lui quando abitava qua con la madre, cosa faceva? Lo faceva camminare senza guinzaglio, un cane del genere, studio su cani spaventi tu. C'è una testa che sembra, mamma mia, un bel gigante come te. Proprio faccio passeggiare senza mugliarola e senza guinzaglio, no, non fa niente. Lui tranquillo gioco il cane. Ma cosa faccio? Faceva la testa a scuola a prendere i gatti. Vabbè. Purtroppo i cani prendono il padrone, purtroppo. Quello che il padrone gli fa passare loro le persone sugli altri. Purtroppo è così. Comunque Claudio, due cani l'ha ucciso. Non subito, però operazioni, costate 500.000 lire, dopo un po' morto il cane. Due cani ucciso qua. E cazzi, uno l'ha ucciso, guarda, un piccolo bala, 50, 70, forse bulzetto, non so, forse è andato alle scuole, tutti morti. Ma se ne mancava uno, perché era un cane micidiale, quel cazzo. Ma questo cane come adesso? Ancora qua, pensavo che stasera, stavo riposando, stavo prendendo il sonno e lo si ritava a riare nel terrazzo. Tutti, se si guarda, non so, comunque lei ha detto anche i poliziotti perché al telefono, non so, mi stava parlando del cane, lei, la signora non lo voleva più, non lo voleva più in casa, però è ancora qua. Se ce l'ho io lì, senza te contare, sarebbe già sparito, quindi figlio, grazie, la madre è morta. cosa è Moscia? Il figlio della notte carti, qua, tu chiedi, il cane è roba tuo carico, lui guardare che c'è cattivo, tu ti dici, ma se ne va, non ti dico male, ma se ne va dall'altra parte, faccio la piazzetta, se ne salivano tutti sulla, tutti sul, sull'albero, però trovano tutti, solo di dire, adesso te chiudi per andare là e lui viene. Yeah. avuto ragione Antonio, si vede che il padrone l'ha abituato a essere violento e quello poi è un cane grosso e gli ha sviluppato l'istinto ancora di più. Perché le trovi nei grossi e tranquilli, hanno solo l'istinto di difesa e di guardia per altri con il cane. E dunque lui era abituato anche i pitbull sono considerati i cani più forti, ma non come forza fisica, perché non ne hanno la forza fisica, però hanno una struttura mascellare più grossa di qualsiasi altro tipo di cane. E dunque quando ti stringe non c'è cane che è segnato di quello, poi se c'è un incrocio strano, nato, così.